H. Ascolta e controlla. Lia e Clelia hanno l'orario dei corsi in piscina. Il corso di Aquagym è di 8 lezioni della durata di 45 minuti ciascuna e il numero minimo dei partecipanti a ogni corso è 8. Clelia va in piscina la mattina a questo corso, mentre Lia vuole fare un abbonamento per il nuoto libero. Lina telefona alla segretaria della piscina blu. Vuole avere informazioni sul corso di ginnastica dolce. L'iscrizione a questo corso di 10 lezioni è 27 euro. La segretaria dice a Lina che può fare una lezione di prova. I ragazzi chiedono informazioni al segretario. Lui dà il programma dei corsi ai ragazzi. Ci sono 2 lezioni di nuoto alla settimana e alla fine del corso i partecipanti ricevono il brevetto della scuola di nuoto federale. Ma i ragazzi vogliono solo fare un po' di sport e imparare a nuotare un po' meglio.